Guarda, io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, eh? Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare in diretta fino alle 11. Un'occhiata ancora velocissima alle prime pagine dei giornali di oggi, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta un'oretta fa circa dalla nostra Giulia Crivelli. Poi cominceremo dopo il giornale radio delle 9 con gli approfondimenti, le buone notizie. Partiremo questa mattina da un'intervista con il vice ministro ai trasporti Nencini sulla questione, su due questioni che riguardano da un lato l'introduzione, forse sarà la volta buona, del reato di omicidio stradale. C'è stata una serie di manifestazioni in settimana da parte dei parenti delle vittime degli incidenti sulla strada che attendono da tempo questa riforma, evocata praticamente da ogni legislatura negli ultimi anni. Adesso insomma l'emendamento che prevede il reato di omicidio stradale è passato in commissione e vediamo se questa sarà veramente la volta buona. Dall'altra parte, al vice ministro Nencini chiediamo che fine ha fatto la riforma del codice della strada, quella che doveva tutelare i pedoni, i pendolari, i ciclisti soprattutto nelle città italiane. Un fenomeno in aumento, quello dei ciclisti. C'era stata tutta una serie di norme introdotte nel codice della strada, dalla patente anche per le biciclette, eccetera, targa anche per le biciclette, eccetera, eccetera, più piste ciclabili, tutto sparito. Non si sa che fine ha fatto. Tra poco, anzi dopo le 9, sentiremo il vice ministro Nencini su questo. Adesso cominciamo con i giornali di oggi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, dicevamo, i giornali di oggi di cosa si occupano? Beh, insomma, della sfida sinistra sul governo, come dice il Corriere della Sera, la manifestazione di Landini a Roma, ma poi anche tutto quello che sta emergendo sulla vita di Lubitz, il pilota della Germanwings, che aveva anche una malattia agli occhi molto probabilmente, e poi ancora conseguenze, commenti sulla sentenza di assoluzione di Raffaele Amanda per l'omicidio di Meredith Kercher. Cominciamo appunto, abbiamo già letto col titolo del Corriere, sfida a sinistra sul governo, Landini in corteo, il premier peggio della destra, la replica, noi creiamo lavoro. Repubblica infatti sceglie di titolare sempre su questo, con la frase di Landini che sfida il governo e dice a Renzi è peggio di Berlusconi. Però sempre sul Corriere, insomma, il commento di Aldo Cazzullo abbastanza sferzante su questa manifestazione, partendo da un dato: quanta gente ha partecipato a questa manifestazione? 50.000 secondo gli organizzatori, 14.000 persone secondo la questura. Se questo è il popolo, scrive Cazzullo di Maurizio Landini, appare un po' disunito e non invincibile. Anche adesso poi vedremo, anche per diciamo l'apporto o mancato apporto del segretario della CGIL Camusso. Continua Cazzullo, intendiamoci, a Roma è accaduto un fatto politico di rilievo. La piazza, o meglio la piazzetta rossa di ieri, ha tenuto a battesimo un movimento che forse non diventerà un partito in senso tecnico, ma che si presenterà alle prossime elezioni politiche contro il PD. Però l'opposizione di Landini da una parte e di Salvini dall'altra, per quanto virulenta a parole, nei fatti, più che una tenaglia pronta a stritolare il premier, somiglia a due confortevoli guanciali tra cui riposare. La piazza della Fiomme non era neppure lontana parente di quella di Cofferati, anzi non era neppure particolarmente tonica. Il paragone va sempre con quella manifestazione contro l'articolo 18, i 3 milioni di italiani in piazza, 2-3 milioni se non ricordo neanche più, nel 2002, portati appunto dalla loro segretaria della CGIL Cofferati. Questi erano davvero molto molto meno come numericamente parlando, tanto che Cazzullo la interpreta così: la piazzetta rossa, un guanciale confortevole su cui far riposare Renzi, che quindi non deve per nulla essere spaventato da questa opposizione. Sulla questione invece, e anzi vediamo anche all'interno, dicevamo il ruolo di Susanna Camusso, il gelo di Camusso che resta defilata, manifestazione di metalmeccanici, ha precisato lei, quindi diciamo ha negato l'evidenza che si trattasse della prima manifestazione della nuova coalizione sociale lanciata proprio da Landini. Il bacio imbarazzato con il rivale, e la scelta appunto di fare solo una breve dichiarazione. Il bacio imbarazzato della Camusso con Landini, beh, si può vedere in tutte le foto, tutti i giornali, cioè questa foto, e si vede che lei quasi si ritira all'indietro, ha un'aria molto rigida, e quindi questo bacio che voleva significare per Landini siamo uniti contro il governo, viva la coalizione sociale, per la Camusso ha voluto dire sì, sono qui giusto per non far vedere che ci dividiamo tra di noi, ma quello che stai facendo non mi interessa per niente e anzi non sono d'accordo. Sottotesto. Sulla questione Lubitz invece ci sono le dichiarazioni della ex fidanzata, della fidanzata, che dice: un giorno tutto il mondo si ricorderà di me, conoscerà il mio nome. Così ha detto Lubitz alla sua fidanzata, che lo ha rivelato in questi giorni, e che ha aggiunto: mi disse, farò qualcosa che cambierà tutto il sistema. Chissà di cosa si trattava. Ma c'è un'altra indiscrezione al di là di questa, che c'è più o meno su tutti i giornali. Secondo il Corriere, negli Stati Uniti Lubitz non avrebbe potuto lavorare, perché a quanto risulta al Corriere, la Federal Aviation Administration negli anni scorsi ha emesso due certificati di iscrizione di Lubitz nei suoi elenchi. Lubitz, che come sappiamo ha ottenuto il brevetto con due test, uno in Germania e uno alla Lufthansa in America, però, ma secondo le regole americane il brevetto il primo del 2010 era un brevetto come studente pilota, poteva volare accompagnato da un istruttore. Nella seconda occasione, nel 2012, sempre la Federal Aviation Administration ha rilasciato un altro brevetto come pilota privato, quindi ben lontano dalla qualifica di Airline Transport Pilot che deve avere chi conduce aerei passeggeri. Con quella licenza si possono guidare soltanto aerei a motore e a un solo motore alianti, e quindi insomma secondo il Corriere questi brevetti che aveva, queste licenze di volo che aveva Lubitz, non le avrebbero consentito di guidare un aereo negli Stati Uniti. Questo non so che cosa possa significare nell'ambito di tutto quello che è successo, però insomma è così che scrive il Corriere. Andiamo torniamo sulla manifestazione di Landini per il commento del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi su questa manifestazione. Squinzi è stato generoso da un punto di vista, insomma, sono controparti, però dice Squinzi, e lo riporta il Sole 24 Ore. Squinzi, il titolo principale è Piccole imprese, motore della crescita, però il sottotitolo è proprio sul sindacato che ha frenato tutto in questi anni. E quindi Squinzi, alla domanda, era a Venezia per l'iniziativa della piccola impresa di Confindustria su questo debutto della coalizione sociale sindacale, e lui dice: è l'annuncio di un nuovo soggetto politico che si sta costruendo, in termini di democrazia è positivo, dice Squinzi, sia quindi benvenuto, ma mi auguro che questo progetto politico sia capace di guardare avanti, guardando indietro. Infatti gli attori di oggi hanno già fatto danni abbastanza. Quindi giudizio duro sul sindacato per quanto riguarda il passato da parte di Squinzi. Un esempio è l'accordo sulla rappresentanza sindacale raggiunto 18 mesi fa, ma solo da pochi giorni è stato firmato il regolamento attuativo. I sindacati erano d'accordo su tutto, però ci hanno fatto disperare e ci è voluto un anno e mezzo per firmare appunto la messa in pratica di questo accordo sulla rappresentanza. Oggi, come sapete, stanotte è arrivata l'ora legale Però, secondo un gruppo di biologi che ha scritto una lettera all'Europarlamento, questo è un danno. Fermate l'ora legale, sconvolge la vita e ci rovina per 6 mesi, scrivono questi scienziati. Un documento inviato appunto all'Europarlamento, perché sono molti paesi che adottano l'ora legale simultaneamente. Si tratta di un orario artificiale, dicono i biologi. Il nostro organismo non può in nessun modo adattarsi, le conseguenze possono durare fino a 7 mesi, cioè fino a che poi tutto non torna a posto con l'ora poi solare di nuovo, quando verrà reintrodotta. Lo scrivono appunto questi esperti della European Society for Biological Rhythms, scusate la pronuncia in inglese, probabilmente non impeccabile. Ma che succede? Quali sono i danni? Alla lunga diventa uno stress adeguarsi a questo nuovo orario per il nostro organismo. A questo stress è associato un aumento del consumo di nicotina, di alcol, caffè, così come il sovrappeso, ma anche la sindrome metabolica e la depressione. Nei giorni immediatamente, nelle ore immediatamente successive all'introduzione dell'ora legale, secondo questi biologi, si può notare un aumento del rischio di incidenti e di problemi cardiovascolari. Va bene, insomma, una polemica che ritorna, forse con così forte non mi era mai capitato di leggerla, ma insomma è l'ora legale che viene invece salutata come un momento felice, si recupera un'ora in più, si risparmia energia, si risparmiano soldi, si vive più nel sole, viva, siamo tutti felici. Invece i biologi ci dicono no, attenzione, fa malissimo. Il Fatto Quotidiano invece ha un'altra notizia in prima pagina, che è quella dello scandalo dell'antismog. Ne abbiamo parlato ieri dei limiti antismog che tornano in molte città perché le polveri sottili, visto che non ha piovuto abbastanza, imperversano su molte città, Roma e Milano comprese. Secondo il Fatto Quotidiano però c'è un'inchiesta sui filtri antiparticolato per le auto diesel che ha ingrassato i soliti noti, cioè un accordo tra le amministrazioni pubbliche e i produttori per utilizzare questi filtri antiparticolato, che però farebbero anche male alla salute. Lo ha denunciato un'associazione di consumatori, Assoconsum. Secondo i suoi studi si evince addirittura che l'installazione di questi filtri antiparticolato potenzialmente creano danni per la salute persino maggiori che se non ci fossero. L'idea è che funzionari pubblici sono accusati di avere violato le norme per procurare ad alcuni produttori, tra cui anche Fiat, Pirelli e Iveco, un ingiusto profitto. E c'è un'inchiesta che è partita da Torino e portata avanti dal procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, che ha aperto un fascicolo su questa questione qua dei filtri anti particolato. Allora, sono le 8:46, ci fermiamo per una breve pausa per il traffico, torniamo tra un attimo e andremo a curiosare tra le pagine dell'Inserto Culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e ben ritrovati con Si può fare. Come anticipato, è il momento di andare a curiosare tra i temi alti e bassi della cultura, così come ce la propone il domenicale, l'Inserto Culturale del Sole 24 Ore. Ritroviamo Armando Massarenti, che ne è curatore responsabile e direttore. Buongiorno Armando, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Eccoti qua. Eccoci qua con una copertina su Brodel che parla, dialoga con un grande storico italiano, Federico Chabot, che aveva ingaggiato una collaborazione niente meno che per la Treccani, ed è Sergio Luzzatto che ha ritrovato questa lettera importante e questo scambio, appunto, in cui Brodel, il grande storico del Mediterraneo, muove nella fine degli anni 20 appunto questi passi per collaborare alla lettera D della Treccani. Ecco, una curiosità molto interessante che disegna un pezzo della nostra storia, della nostra cultura. Poi insomma in questo numero ci sono tante altre cose, abbiamo un grande archeologo Paolo Mattie che ci parla di nuove scoperte sulla piramide di Cheope, cioè come su nuove carte che spiegano bene come si costruiva, insomma quali erano i conti che si facevano nel costruire la piramide. Si scopre tra l'altro che erano necessari molti meno schiavi, tra virgolette, o comunque operatori che di quanto si pensava un tempo. Insomma, questo ridimensiona un po' certi ragionamenti che sono sempre fatti sulle piramidi. Tra l'altro siamo a pochi giorni dalla riapertura del Museo Egizio di Torino e ne daremo conto peraltro la settimana prossima, sarà un grande evento, una grande novità. Poi non so, posso dire qualche altro argomento a caso, Jhumpa Lahiri, questa grande scrittrice, importante scrittrice americana e bengalese nello stesso tempo, che si muoveva tra due lingue, l'inglese e appunto il bengalese che aveva imparato da piccola, adesso ha deciso di scrivere un libro intero tutto in italiano, dimostrando un grandissimo amore per la nostra lingua, con una prova veramente molto riuscita, e questo ce lo racconta Gabriele Pedullà, il libro è uscito per Guanda. Poi abbiamo due pagine centrali molto interessanti sui graffiti, che adesso nel quartiere di Tormarancia a Roma sono stati fatti, realizzati grazie alla Fondazione Roma, e il professor Emanuele ci racconta un po' questo impegno per andare a ravvivare delle parti della città. Graffiti belli, insomma. Belli, tanto. Sì, con ben 20 artisti di cui raccontiamo, facciamo il ritratto. Che poi sappiamo, Armando, insomma, che è un modo a volte anche per prevenire i graffiti brutti, no? Perché si dice, si spera che dando spazio sfoga la creatività su spazi gestiti e ben organizzati, poi si toglie, come dire, l'infa a graffitaro, quello che deturpa. Esatto, anzi è proprio lo stesso graffitaro che domanda, no? Che chiede una maggiore formazione, una capacità anche tecnica, no? Cioè cerca di sviluppare una maggiore capacità tecnica proprio per aumentare questa sua qualità, e quindi producendo dei risultati notevoli dal punto di vista dell'espressività. Vedo, Armando, che a pagina 16 affrontate un argomento secondo me molto importante di questi tempi, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, insomma un tema a volte ho definito il vero buco nero della sanità italiana. Parliamo molto di depressione quando parliamo di Lubitz, del pilota della Germanwings, poi naturalmente chiudiamo i giornali e non ci interessa più nulla di sapere come stanno e come si trovano, in che condizioni si trovano le persone che hanno disturbi mentali nel nostro paese. Come affrontate questa questione? È una questione delicatissima, fai bene a ricordarla. Proprio fra pochi giorni ci sarà la chiusura quelli che si chiamano i pazzi morali, no? Chi cura i pazzi morali è la domanda appunto che noi ci poniamo. Ecco, diciamo che bisogna evitare di fare gli stessi errori che sono fatti negli anni 70 con la pur meritoria legge 180, no, che aveva aperto gli ospedali psichiatrici. Qui si tratterebbe di mescolare questi criminali violenti, diciamo anche criminali, sia pure con delle colpe che derivano più che altro dalla loro malattia, con i malati comuni, diciamo. E quindi insomma grande cautela. Gilberto Corbellini, che peraltro aveva scritto anche un libro con con Johnny Jervis, che era stato uno dei grandi collaboratori di Basaglia ai tempi. Johnny Jervis purtroppo, che ha collaborato pure con Domenicale, ci ha lasciato qualche anno fa. Corbellini aveva scritto un libro con lui, qui scrive un pezzo con Elisabetta Sirgiovanni, una riflessione appunto su come evitare gli errori di un tempo, è proprio come per gli motivi che dici tu, cioè una maggiore consapevolezza di che cos'è la malattia mentale, di quali sono i suoi pericoli, e anche per evitare dei moralismi sbagliati, ecco, che vanno certo nella direzione sbagliata. Quindi grazie per aver ricordato questo articolo, che è molto importante. Poi tra l'altro abbiamo anche questa nella pagina Scienza e Filosofia, nell'altra pagina abbiamo altri pezzi abbastanza altrettanto impegnativi e importanti. Fabrizio Benedetti, lo ricordavamo, uno dei massimi neuroscienziati al mondo, che insegna a Torino, che parla della possibile manipolazione dei nostri ricordi, no? Per una commentando un recente articolo uscito su Nature. Poi abbiamo un pezzo anche molto sfizioso su come contano, titolato "Anche i pulcini contano", con questo leggero doppio senso, quanto contano i pulcini nel loro piccolo, contano, e infatti contano, sanno contare. E qui si raccontano delle ricerche di Vallortigara, che è un altro grande nostra gloria scientifica. Siamo poi quasi in chiusura, ancora, Armando, abbiamo ancora, guarda, 30 secondi. Ma guarda, ti ricordo un pezzo veramente molto bello che si intitola "La verità vi prego sul matrimonio". Ah, anche questo di attualità. Veramente molto bello, sì. Che parla di un libro che ha anche un titolo molto bello, Alberto Melloni. Di Melloni, che, sì, l'ho visto. Sì, "Amore senza fine, amore senza fini, appuntini di storia su chiese, matrimoni e famiglie". Bene, sì, bene, dobbiamo fermarci. È una specie molto importante, ma insomma, questo veramente da raccomandare per chiunque. Grazie mille, Armando. Ci ritroviamo domenica prossima con Armando Massalenti e con il Domenicale. Lo trovate naturalmente in edicola se siete incuriositi. Noi invece, come si può fare, ci risentiamo dopo la pubblicità, il giornale radio. Avremo il vice ministro dei trasporti Nencini, codice della strada, biciclette o il reato di omicidio stradale. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Ed eccoci qua con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Buona domenica a tutti. Buongiorno e buona domenica, cari amici ascoltatori. Buona domenica anche a quelli che stanno facendo la Stramilano. Milano-Monterosa, sole, giornata bellissima oggi. Volevo esattamente dire questo, perché è stato bellissimo stamattina venire in radio in motorino. Di solito siamo sempre soli come tutti dei cani. Tutti in tutina, con i pettorali. E invece è piena la città, sbucano fuori dal dietro le macchine. Improvvisamente si preparano, li vedi che si vestono, si mettono la pettorina, corrono e stanno tutti andando al punto di raccolta. Ci sono già le transenne lungo le strade di Milano e quando torneremo a casa noi dovremo fare il giro da qualche altra parte perché è tutto bloccato. Assolutamente, però è bello perché ci si sente meno soli la domenica mattina ed è stato un bellissimo risveglio. In più abbiamo dormito un'ora in meno, io mi sono sveglio alle 4 per essere sicuro di arrivare per tempo, perché stanotte ero lì che calcolavo, dicevo no ma aspetta, va un'ora in avanti, allora io la devo mettere un'ora in avanti, però si aggiornano da soli. No, forse non si aggiorna anch'io da solo. Anch'io non so come mi è suonata una sveglia una delle due che metto la mattina un'ora prima, perché qualcosa nella pianificazione, per fortuna, però meglio una sveglia in più che una sveglia in meno. Infatti non te l'ho detto adesso, in realtà sono qua sotto la radio dalle 6:15 e ho detto aspetta, aspetto che passi e poi entro con lui. Carlo, tra l'altro questa settimana per te è una settimana importante anche per tutti i tuoi seguaci che aspettano probabilmente di sapere qualcosa sul tuo libro in uscita a metà settimana, "Fossi in te io insisterei", un bellissimo titolo, "La lettera a mio padre sulla vita ancora da vivere". Carlo Gabardini, non ti mettere a piangere. Esatto, perché adesso mi emoziono tantissimo. Perché è una cosa... Ti ringrazio molto molto. Sì, è una cosa alla quale tengo tantissimo. In realtà viene definito un romanzo familiare, però è una lettera a mio padre nella quale spiego diverse cose. È un po' un atto dovuto, è una cosa che dovevo fare da molti anni, dovevo fare, quindi sono molto contento di aver portato a termine. Non è un libro, lo dico chiaramente, solo sull'omosessualità, assolutamente. Anche perché io penso, cioè sicuramente anche il mio coming out, visto che dopo la lettera su Repubblica, della mia omosessualità lo sanno tutti, ma invece dovevo fare coming out con mio padre, ma in realtà penso che il coming out sia su molte altre cose. Infatti io volevo intitolarlo "Coming out per tutti", ma giustamente anche Mondadori mi ha detto è un titolo che sembra solo la questione omosessuale, e non è quello, perché io penso che il coming out dovremmo farlo tutti, perché significa dire al mondo quello che sei, quello che vuoi fare, quello che vorresti diventare da grande, quello che ami. E a me piace invece questo titolo, mi piace molto, perché insomma, me l'hai raccontato naturalmente quando stavi scrivendo il libro. Adesso il libro è uscito, si può dire. Insomma, esce martedì. È una bella frase che un padre può dire a un figlio nella realtà, o anche semplicemente immaginandosi che ci possa essere stato. Ma lui me la disse quando venni. Io in realtà disse il mio vero cammino coming out con mio padre quando andai da lui, siccome lui era avvocato, a dire che io non avrei fatto l'avvocato. Ma avresti cazzeggiato. Fatto, esatto. E lui, insomma, in realtà ci teneva che facessi l'avvocato. Quando mi bocciarono poi alla Paolo Grassi, io andai da mio padre dopo 2 anni e gli dissi: guarda, a questo punto io mi iscrivo a legge, perché se il teatro non mi vuole. E lui mi disse: fossi in te, io insisterei. Poi è una roba che in realtà mi è successa varie volte nella vita. Chiudo solamente sulla questione del coming out, perché ripeto che secondo me il coming out è che ognuno di noi deve dire quello che è, e penso che quasi che gli omosessuali siano quasi fortunati, perché lo sanno fin da piccoli che deluderanno i loro genitori, quindi si chiedono come, dove, quando dirlo ai propri genitori. Ma in realtà tutti deluderemo le aspettative dei nostri genitori o delle persone che ci stanno intorno, per il semplicissimo fatto che sono le loro aspettative, e invece noi dobbiamo prendere in mano la nostra di vita, allora, e cominciare a viverla. Poi dopo magari ci dici anche quando i primi appuntamenti, le presentazioni del libro, ne farai anche una a Milano, teniamocela per dopo. Questa, assolutamente. 800 24 00 24, tra poco, cari ascoltatori, abbiamo il vice ministro Nencini, con il quale parliamo della, insomma, il codice della strada, la riforma del codice della strada, che fine ha fatto, ma anche invece una notizia positiva in arrivo c'è, si discute dell'introduzione, dovremmo esserci, del reato di omicidio stradale. C'è stato in settimana una serie di manifestazioni da parte di parenti delle vittime di incidenti stradali che aspettano questa cosa qua da molto tempo, speriamo davvero che sia la volta buona. Però abbiamo anche il gioco, diciamo subito il premio, personaggio della settimana, cerchiamo un personaggio della settimana, il premio messo a disposizione anche questa settimana dai comuni virtuosi Povegliano Veronese, l'ho detto già anche ieri, questa volta l'offerta è un weekend, un pacchetto di visita sul territorio, una notte per 2 persone in un relè Porta Rossa, siamo a Povegliano Veronese. Chiamo anch'io, voglio vincere io. Personaggio, il primo indizio. State. Lo dico io, il nostro personaggio questa settimana ha lanciato una sfida. Quindi cerchiamo un personaggio che abbia lanciato una sfida importante. 800 24 00 24. Che cerco nasconde un movimento, quale destinazione può incontrarci, se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato, qual è l'angolazione per fissarci, strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, tergi cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. E allora, lo abbiamo già annunciato, diamo il benvenuto e il buongiorno a Riccardo Nencini, viceministro alle infrastrutture e trasporti. Benvenuto. Buongiorno. Buona domenica. Grazie per essere con noi di domenica mattina, tra l'altro. Allora, io l'ho già annunciato, insomma, i temi sono questi. Partiamo dalla questione del reato di omicidio stradale e l'altro reato di cui si sta discutendo, quello di lesioni personali stradali. Un lungo cammino per questa previsione di reato, atteso, molto atteso in Italia, evocato tantissime volte, adesso sembra che siamo in dirittura d'arrivo. Chissà che sia la volta buona, che è lo slogan preferito da Renzi. Caro Nencini, ci spieghi di cosa si tratta intanto? Ne abbiamo parlato, anzi ne stanno parlando da perlomeno da 4 anni. Per la prima volta però, oltre a parlarne, quell'ipotesi di reato è stata inserita all'interno di una legge, perché la Camera, quando ha approvato nell'autunno scorso la legge delega sul codice della strada, l'omicidio stradale l'aveva inserito. Ora è al Senato, 8a Commissione Senato, la novità è che la Commissione Giustizia del Senato ha sposato la posizione favorevole all'omicidio stradale, lo ha previsto. Può essere quella norma ancora migliorata, però è significativo che anche il Senato confermi la posizione della Camera. Ecco perché io sono molto ottimista sul fatto che quel tipo di reato specifico ora possa essere inserito nella normativa dello Stato. Cosa prevederebbe qualora fosse approvato questo reato di omicidio stradale, Nencini? Non prevede una pena particolare legata all'omicidio stradale per chi provoca un incidente. Prevede una pena particolare se si provoca un incidente mortale, guidando in stato di ebbrezza, guidando sotto l'effetto di stupefacenti. Questi che sono sappiamo, i due purtroppo che sono due casistiche che si sono ripetute che sono in aumento, spesso. Che sono in aumento. Noi abbiamo una situazione che va decisamente ancora migliorata, ma rispetto agli 8.000 incidenti mortali di alcuni anni fa, oggi la soglia si è ridotta a meno della metà, circa 3.400, però dentro a quel numero la percentuale degli incidenti provocati in stato di ebbrezza oppure sotto l'effetto di stupefacenti è circa un terzo, ed è in aumento, ecco perché bisogna controllarlo e... Sulla, ecco sì, esatto, questo è il punto. Sulla diminuzione degli incidenti si è detto spesso, merito soprattutto in gran parte anche della patente a punti. Lei da vice ministro da non moltissimo tempo ai trasporti, però è d'accordo su questa analisi? Sì, non c'è dubbio, è migliorato sì il controllo ad esempio sulle autostrade, perché non c'è dubbio che la velocità più alta sia più provochi la possibilità di un incidente di una certa gravità, sì. Ma non c'è dubbio che la patente a punti abbia ridotto decisamente. A proposito di patente, però, c'è una questione, no, che resta aperta, quella del ritiro della patente in caso di un conduttore di un'autovettura che ha commesso in stato di ebbrezza un incidente provocando una vittima mortale. Non c'è il cosiddetto ergastolo della patente, non è previsto che la patente venga tolta definitivamente, ci vuole il secondo incidente mortale. Questo però appare, paradossale o no? Nella legge delega approvata alla Camera si parla di omicidio stradale e di ergastolo della patente, punto. A fronte di chi provoca, nelle condizioni che abbiamo detto prima, bisogna essere chiaro, perché fuori nell'immaginario collettivo si pensa che l'incidente stradale in quanto tale provochi entrambi. No, certo. Infatti, solo nel caso che abbiamo specificato, e lo sottolineo, lì non c'è altra specificazione. Ora va visto come la legge delega passa dal Senato, se vi sia la possibilità di introdurre questo doppio fattore, non al primo incidente ma al secondo, cosa che troverei sinceramente impropria. Quindi anche lei è contrario a che... O la prevedi o non la prevedi, non ha senso prevedere che lo stesso soggetto tra l'altro sia il protagonista di due incidenti mortali, siamo meno male, nella rarità assoluta. Nel campo dell'assurdo anche, però. Direi di sì. Io intanto rilancio agli ascoltatori all'800 24 0024 la possibilità di intervenire in diretta per commentare quello che state sentendo, l'intervista al vice ministro Nencini. Se invece avete domande potete scriverci al 349 238 6666 oppure sui nostri account social che più o meno conoscete. Carlo, volevi fare una domanda? Sì, mi scusi, signor vice ministro, volevo chiedere una cosa. Io sono lo stupido dei due, però volevo capire se l'omicidio stradale scatta nel momento che uno supera il limite dell'alcol consentito o se uno è molto ubriaco. Perché siccome sulla questione dei limiti forse è anche giusto che il limite sia molto basso, però è molto basso, nel senso che basta bere due bicchieri di vino, diciamo. Oppure se l'omicidio stradale invece è previsto nel momento che uno è ufficialmente completamente ubriaco. Delle contestazioni più che sullo stato di ebbrezza, che pure va studiato meglio nel momento in cui applichi l'omicidio stradale, riguarda più l'uso di stupefacenti. Perché taluni esperti, taluni scienziati assolutamente affidabili sostengono credibilmente, sì, che l'uso di una droga possa essere censito soltanto in un lasso di tempo prevedibile. Cosa succede se quell'uso non viene censito in quel lasso di tempo? Se ad esempio il protagonista dell'incidente stradale mortale fugge sotto l'effetto di stupefacenti e viene riacciuffato un giorno dopo, due giorni dopo, quando l'effetto non è più misurabile. Allora, noi intanto fissiamo la fattispecie del reato, poi la scienza dovrà aiutarci a stabilire i paletti e a mettere naturalmente i confini. Certo. Senta, due però a questa proposta, a questa previsione, diciamo, di reato di omicidio stradale. Il primo è questo: non c'è la possibilità, che stava accennando anche lei in qualche modo tra le righe, mi riaggancio a quello, cioè Se io so che c'è un reato di quel tipo che prevede una pena più grave di quello che succede adesso, non rischiamo di avere più pirati della strada, cioè gente che non si ferma a soccorrere perché teme il reato? Beh, già il numero oggi è abbastanza alto di chi provoca incidenti di varia natura e fugge. Sta poi naturalmente allo Stato aumentare i controlli, prevedere una maggiore vigilanza, come sta allo Stato a ciuffare i delinquenti. Quindi non dovrebbe essere questa una legge, come dire, a costo zero, cioè ci dovrebbe essere affiancato, scritto da qualche parte, che si investe anche in pattuglia, perché questa è l'altra domanda che viene fatta, no? L'altro... È già previsto all'interno della legge delega del nuovo codice, è già previsto un investimento sia per la sicurezza sulla strada, sia per quello che riguarda la formazione, soprattutto di chi non ha ancora la patente e l'avrà quando supera i 18 anni. Noi già oggi stiamo facendo formazione nelle scuole e hanno aderito 800.000 o 1 milione di studentesse e di studenti italiani. E il terzo è il potenziamento: grazie alla raccolta delle multe, una parte di ciò viene reinvestito per la formazione, anche in questo caso sulle strade. E per quanto riguarda invece i pattugliamenti, i controlli, c'è anche lì una linea particolare di investimento? Si stima una percentuale di incremento, qualche cosa, o siamo nel campo, diciamo, delle possibilità? Perché questo è fondamentale. Non c'è dubbio, va concordata con il Ministero degli Interni. Resta sempre la vecchia polemica dell'adeguatezza dei mezzi da mettere a disposizione delle forze dell'ordine e di quanti siano negli uffici e quanti invece siano sulla strada. È una polemica che io ricordo ormai da qualche anno. Sì, ma se fosse per lei, cosa si dovrebbe fare in questo senso? Cioè, quale impegno si sentirebbe di prendere per dire cerchiamo di aumentare i controlli? Certo, dipende anche dal Ministero dell'Interno, ma la richiesta, diciamo così, che il Ministro ai Trasporti fa, il Vice Ministro, al Ministro dell'Interno è di procedere... Dobbiamo lavorare assieme sulla formazione. Il punto, guardi, è sempre lì: educare a comportarsi in un certo modo sulla strada. Dalle mie parti si dice che sei un ganzo se fai le cose in un certo modo. Ecco, essere un ganzo sulla strada vuol dire rispettare la sicurezza degli altri, perché vuol dire anche portare a casa la pelle sano e salvo. Quello è essere ganzo, e dipende dalla formazione che spesso hai e dai, offri, soprattutto a partire dal mondo della scuola. Secondo, vigilanza. Maggiori controlli che non possono essere affidati soltanto al di macchinette mangiasoldi quando superi il limite di velocità. Spesso sono utili, però ecco, non ci affidiamo soltanto a queste. Insomma, però possiamo dire questo, che tra i vari compiti che hanno le forze dell'ordine e la polizia, che dipende dal Ministero dell'Interno, quindi diciamo sempre rivolgendosi ad Alfano in questo momento, al Ministro dell'Interno, quello dei controlli stradali può essere considerato una priorità vera, perché parliamo appunto di poco meno di 4.000 morti all'anno, quindi forse una delle prime cause di mortalità in Italia, e quindi deve essere una priorità. Certamente c'è la lotta al terrorismo, altre forme di criminalità, però questa questione dei controlli sulle strade deve essere una priorità vera. Per due motivi: il primo è che si salvano delle persone, vite umane, spesso vite di chi non porta nessuna responsabilità, utenza debole, chi sta in bicicletta, un anziano che attraversa la strada, un ragazzino che va a scuola. Questi non c'entrano niente spesso con incidenti che vengono provocati. Secondo, sa quanto costa l'insieme degli incidenti stradali italiani per il nostro prodotto interno lordo? Oltre un punto di percentuale. Di PIL. Sì, esattamente. E quindi salvare la vita umana e allo stesso tempo abbattere anche i costi. Prima decisamente salvare la vita umana. Ecco, a questo proposito, siccome lei ha fatto riferimento alla riforma del codice della strada, cioè l'altro binario di cui che riguarda, diciamo, le politiche per il traffico, per il controllo, insomma, e la riforma del codice della strada, che però si è fermato. Io ho detto si sono perse le tracce, adesso è ripreso l'esame in commissione, però rispetto all'inizio di questo iter si sono un po' perse le tracce. Parliamo di tutelare i più vulnerabili, cioè i pedoni e i ciclisti, che tra l'altro, sono tornando al discorso economico, sono quelli che costano anche meno al sistema sanitario, perché probabilmente fanno un allenamento, vanno in palestra tutti i giorni e quindi invecchiano anche meglio, oltre ad inquinare meno, intasare meno le città. Tutto questo si è bloccato per questioni, si è detto, di mancate coperture finanziarie. No, guardi, non c'entra assolutamente niente. La verità è che ci sono una serie di urgenze che sono diventate priorità. Io la delega anche al codice degli appalti e non aggiungo niente sull'urgenza di modificare il codice degli appalti, tanto più alla luce di una successione di eventi che stanno troppo sui giornali per essere ricordati. Poi c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, poi la legge elettorale, poi la riforma del Senato, quindi c'è stato un accavallarsi di urgenze che hanno portato in questo caso il codice della strada in una posizione, diciamo, da A1, anzi, cioè ha trovato la strada intasata, insomma. Esatto, sta tornando, tanto per rimanere, ha trovato traffico. No, detta così mi tranquillizza e credo che tranquillizzi tutti quelli, ripeto, i milioni di persone che si spostano a piedi come pendolari sui mezzi pubblici, ma anche quelli che utilizzano la bicicletta, che sono sempre di più, si tranquillizza con una risposta del genere, perché a un certo punto invece si è letto sui giornali che c'era un tema economico, non ci sono le coperture finanziarie per un tema come questo che ci stiamo dicendo invece è vitale, prioritario, quindi ci sono le coperture economiche. Riguarda direi su 60 milioni di italiani, forse quanti ne esclude? Il 10%? Non lo so. Riguarda anche coloro che non hanno la patente, naturalmente. Se passeggi lungo un marciapiede su una strada e ti trovi in una condizione di difficoltà dovuta a un automobilista, riguarda anche te, quindi riguarda veramente tutti gli italiani. Certo. Infatti io non ho la patente, ci tengo a dirlo al ministro, al viceministro. Quindi l'accompagno io quando deve muoversi. Perfetto. Ecco, io le stavo per chiedere un impegno preciso del ministro, abbiamo già trovato. Beh, accompagnare Gabardini che non ha patente. È un impegno straordinario, la ringrazio moltissimo. Dovrebbe trasferirsi a Milano, non so se le conviene. Guarda, ci sono ora per l'appunto. Vedi, allora per oggi si può fare, Siccome ministro Nencini, qua si può fare, non si viene se non si prendono impegni anche precisi di qual che si può fare. Io le chiedo, quale impegno lei si sente di prendere su questa riforma del codice della strada? Cioè, riusciamo a dare una data? Riusciamo a dire che il pacchetto che è passato alla Camera verrà confermato? Cosa riusciamo a dire? Se il Senato, la Camera ha già approvato, se il Senato approva con modifiche deve tornare alla Camera, e quindi spero che approdi di nuovo alla Camera modificato entro il mese di maggio. Se così, fine anno, gennaio 2016, abbiamo un nuovo codice. Quindi lei immagina che ci saranno però delle modifiche in Senato? Assolutamente sì. Migliorative dal suo punto di vista? Perché quello era già considerato un testo molto, molto, molto positivo. La Camera ha fatto un testo molto buono, ma che va oltre la legge delega, perché era molto puntiglioso e molto approfondito. La legge delega in genere fissa i principi generali di una norma. Cosa bisogna togliere secondo lei di lì? La prima commissione ha già tolto qualcosa. La commissione giustizia ha inserito invece tutta la parte che riguarda l'omicidio stradale, che era uno dei denti dolenti, e quindi ha risolto il problema. Ci sono delle cose che si possono approfondire meglio, però io aspetterei di nuovo la norma, non la legge delega. Ma dovendo, diciamo, scegliere un punto su cui battere di più, tra il trasporto pubblico e invece parlo sempre anche di incentivi, cioè quindi anche di investimenti da parte proprio dello Stato, e invece il miglioramento della qualità delle strade, le buche, le strade pericolose, la segnaletica. Il trasporto pubblico locale ha una legge sua, sì, e non c'è dubbio che sia prioritaria. Se le do i dati di Roma, sì, lei si spaventa, e si spaventa perché è l'unica città italiana dove la benzina e il gasolio sono aumentati come a Milano, come a Palermo, ma dove l'uso del trasporto pubblico è precipitato del 6%. Perché secondo lei? Perché c'è disservizio. E quindi? E quindi il cittadino si rivolge all'auto privata, certo, ma per andare a studiare, per andare a lavorare. E quindi che tipo di interventi lei immagina su questo? Servono autobus nuovi, perché ne abbiamo di troppo anziani, di troppo vecchi. La media europea noi la superiamo abbondantemente, addirittura la raddoppiamo. Serve soprattutto un incentivo migliore per il privato, perché spesso abbiamo delle società a prevalenza pubblica che non funzionano come Dio comanda. E quindi bisogna commissariare società, aziende che hanno stabilmente almeno 3 anni su 4 di buchi di bilancio. Verso queste, e ce ne sono diverse in Italia, non bisogna avere più nessuna forma di rispetto, ma tutelare l'interesse del cittadino che prende l'autobus vuole arrivare puntuale, vuol prendere l'autobus all'orario che c'è scritto sopra la tabella, certo, che si trova sotto la pensilina. Un'ultima cosa, Nencini, le chiedo sul tema invece dei ciclisti, sul quale il pacchetto approvato alla Camera sembrava già molto quasi avanguardistico per l'Italia, cioè piste ciclabili, possibilità addirittura di andare contromano nelle strade più larghe, zona a 30 km nelle città. Questo pacchetto lei si auspica che venga confermato o no? È un pacchetto buono, assolutamente sufficiente, ma una condizione: che sia messo in sinergia con il lavoro che stiamo facendo con le smart city. Un'idea cioè diversa di abitare la città e di costruire la città. Noi possiamo scrivere nel codice della strada piste ciclabili eccetera, ma se le città non hanno piste ciclabili, poi è un problema avere un ciclista che viaggi sulla strada in maniera di assoluta tranquillità e assoluta sicurezza. Ecco perché nelle previsioni delle smart city abbiamo visto, fra le altre cose, energia, sicurezza, ambiente, la possibilità di realizzare piste ciclabili nel nuovo costruito. Senta, ce l'ha una cifra che secondo lei deve essere associata a questa riforma del codice della strada complessivamente, e con, di investimento economico sto parlando, in testa, ce l'ha? No, ancora non l'abbiamo realizzata. Ripeto, una stima, diciamo, un ordine di grandezza. Va legata fra il codice della strada, le smart city ed altri provvedimenti, perché il codice è una visione alta del problema. Poi bisogna intervenire concretamente, certo, sono altri ministeri che devono operativamente mettere le mani. Però insomma, sentiamo parlare di miliardi di euro per vari capitoli della politica dello Stato su questo argomento, che ripeto ci trova d'accordo, è prioritario. Non abbiamo ancora una cifra. No, ma non si tratta assolutamente di miliardi, eh. Centinaia di milioni. Semmai. Se dentro mettiamo la realizzazione delle, ripeto, delle piste ciclabili e quant'altro, ma usciamo dal miliardo? Ma insomma non sono così pessimista. Quindi intorno al miliardo forse? Ripeto, cifra presunta ma senza un calcolo perfetto. Va bene. Del resto, insomma, il ministro non è che si può, sì, deve anche essere diplomatico. Grazie, Nencini. Buona domenica. Grazie mille, per essere ministro. Stato con noi. Spero che la parola ganzo sia anche dentro nella legge. Grazie mille. 800 24 0024. Ci risentiamo tra pochissimo. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, e abbiamo in linea, chi abbiamo? Carlo, che ci chiama da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire Carlo? Sul personaggio della settimana. Benissimo, siamo avanti. Siamo tutto orecchi. Chi è? Puro istinto Landini. Puro istinto, cioè va così, chiude gli occhi e pensa a Landini. Sì. E qual è la sfida che ha lanciato? Qual è la notizia? La sfida è generale rispetto alle politiche governative. Insomma, sì, la manifestazione di ieri, la coalizione sociale. Non è che ci fossero dei dubbi, non è che fossi scettico, era semplicemente che volevo farle dare a lei la notizia. Sviscerare un po' la notizia. Perché ci aspettavamo questa risposta, ma non era il personaggio che abbiamo scelto per questa settimana. Grazie Carlo, però, per aver chiamato e in fondo anche per averci ricordato questo personaggio di questa settimana che ha lanciato una sfida. Oddio, non che ci fosse bisogno di ricordarci di Landini, che è da tutte le parti, in tutte le televisioni, in tutti i talk show. Ormai non si fa un talk show se non c'è Landini o Salvini dall'altra parte. Bruno da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, volevo rispondere alla domanda. Sì? Come personaggio pensavo Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple, perché vuole devolvere in beneficenza la sua eredità. Come no? L'ho parlato un po' tanto ieri, però... Sì, bravo, ne abbiamo parlato. Mi è venuto lui. C'era della polemica in questa affermazione, che ne abbiamo parlato troppo ieri? Perché ieri ne abbiamo parlato. No, assolutamente. No, scherzo. Quasi si rammaricava, come dire, cioè sto dando una risposta che è un po' scontata per voi, di si può fare perché ieri ne avete parlato tutto il giorno. È un po' effetti, banale. Esatto. Infatti volevamo sceglierlo Tim Cook, ma avendone parlato tanto ieri abbiamo deciso di non sceglierlo, quindi purtroppo non è il nostro personaggio. Comunque grazie Bruno. Avete sbagliato personaggio. Abbiamo sbagliato noi. Non stai facendo la Stramilano nonostante tu sia a Milano, giusto? Non sto facendo la Stramilano, ho fatto una piccola corsetta per fare in tempo a riuscire a rispondervi. Ottimo. Ma perché, scusa, come mai hai dovuto correre per rispondere? Avevi lasciato il telefono? Il suo collega mi ha detto che non dovevo usare l'auricolare, eccetera, quindi stavo salendo. Siamo un po' pignoletti. Perfetto. Siamo un po' pignoletti. Grazie. Grazie. Ovviamente ha ragione. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Grazie mille. Speravo di beccarlo in corsa durante la Stramilano. Sarebbe bello. Qualcuno... Anzi, se qualcuno sta facendo la Stramilano, ha le cuffiette, sta sentendo noi percorrere. È ancora fiato. Ci chiami. Giuliana, dalla provincia di Ancona. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io avevo sentito il vice ministro, che purtroppo non mi ricordo il nome, Riccardo Nencini, sì? Che dopo due giorni non si può dimostrare se uno si è fatto oppure ha avuto. Sì, parlava di questo, cioè dei controlli. Allora io volevo dire che comunque a una persona che scappa via quando fa un incidente e dopo due giorni si costituisce, e gli si deve attribuire lo stesso un reato del genere. Si attribuisce il reato di mancato soccorso. Devo saperlo prima. Si attribuisce il reato di mancato soccorso, ma è difficile attribuire il reato di aver guidato in stato di ebbrezza perché allora non ci sono le prove. Prego. Sono tutti a scappare via. E questo gliel'abbiamo domandato. Esattamente quello che abbiamo chiesto, perché il rischio ci siamo chiesti se a quel punto è che questa cosa incentiva il desiderio di scappare. Se vuole le ricordo la risposta che ha dato Nencini, più articolata, ma in sostanza ha detto bisogna aumentare i controlli. Bisogna aumentare i controlli. Va bene, grazie comunque Giuliana. Grazie mille. Buona domenica. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa volta parte la testa, testa, testa, testa, testa, la testa, la testa, testa, testa, testa, e ci salta in aria la festa, festa, festa, festa, festa, la festa, la festa, festa, festa, festa, festa, festa, festa, cane che abbaia, cazzo vuoi ci vediamo alla baia, amo il sole che fonde e squaglia, non mi dire che ti fai di scaglia, il telefono in tasca e squilla, la tipa che strilla, la mano col cash che spilla, voglio la villa, una vita tranquilla, spingo la mia roba come un caterpillar, alla fine del campionato, 40 anni di fegato spappolato, come l'anno scorso, i soldi che sborso, la musica parla, sta come un divorzio, eravamo quattro amici al bar, che sognavano di uccidere le rockstar, era che non esistono più rockstar, cosa ci resta? Questa volta parte la testa, testa, testa, testa, testa, la testa, la testa, testa, testa, testa, e ci salta in aria la festa, festa, festa, festa, festa, la festa, la festa, festa, festa, alle feste gli sbarbati ubriachi sui tavoli ballano crucchiere fabbri. Leggendo questa notizia siamo saltati sulle sedie. Il DAMS di Bologna, Dipartimento Arti, Musica e Spettacolo, insomma, cancella le feste di laurea. C'è troppo caos, le proclamazioni avverranno solamente online. Questo è un ma si può fare, cioè interrogativo. Carlo, ti vedo senza parole. Sono un po' senza parole, perché come si fa a dire di no alla festa di laurea, alla proclamazione pubblica della laurea? E poi al DAMS, che è la facoltà per eccellenza dove insomma si fa. Si occupa di spettacolo. Casino. No, casino, però almeno si occupa di spettacolo o anche di comunicazione un po'. Qua con noi il coordinatore del corso di laurea DAMS di Bologna, Claudio Marra. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Che insomma oggi ha il ruolo scomodo di incassare i nostri colpi. Insomma, noi siamo per le feste, per festeggiare in generale. Cioè, è un momento quello lì che chi l'ha vissuto è sicuramente bellissimo. Si festeggia nonni, nonne. Si ha la sensazione che ci sono persone che studiano solamente per quel momento. Per se quel gli togliete momento quel lì. Momento, come si fa? Ci sarà un calo degli iscritti. Ma Ma guardi, intanto credo che sia emerso solo l'aspetto folcloristico di questa decisione che noi abbiamo preso, dico noi, ecco, perché chiaramente non è un decisione mia personale, io sono solo il coordinatore del corso di laurea e ci tiene giustamente a dire che precisare. La colpa non è solo sua e la capiamo. Anzi forse fosse stato per lei non avrebbe presa questa decisione? No guardi, però voglio dire, ecco, se la mettiamo semplicemente sulla battuta, credo che, cioè, il discorso non si riesce a comprendere il senso di quello che abbiamo fatto. Le stavo dicendo ecco, questo è l'aspetto folcloristico che è emerso. In realtà la motivazione è duplice per noi, io l'ho detto alla stampa in questi giorni, perché tra l'altro, ecco, mi permetta di stupirmi così dell'interesse che questa... sì perché guardi, lo dicevo anche ai ragazzi, io sono coordinatore studenti in questi giorni, io sono coordinatore da 5 anni, sì. Anche se vado con la memoria prima, non c'è stato mai una lamentela o come in questo caso. Per una cosa concreta, per una cosa di sostanza. Cioè, lei dice posso chiudere un'aula, posso togliere un corso, esatto. Posso succedere nulla. Questa volta però le posso dire, perché dal punto di vista nazionale si è scatenata. Dal punto di vista mi ha chiamato Rai Radio 1. Sì, sì. Dal punto di vista nostro, diciamo, di giornalisti, di gente interessata a quello che succede nel mondo, è questo. Gente interessata alle feste. Alle feste, forse soprattutto. Certo, cioè, immagino. Che questa decisione sembra che si inserisca in un filone molto ampio, in crescita, ahimè, cioè di divieti, di limitazioni, di costrizioni che sembrano togliere più di quello che in realtà riescono a restituire in termini di utilità. Cioè, veramente non si capisce perché, non solo in questo caso, ma anche in altri. Cioè, le ordinanze, i divieti, eccetera. Quindi è sembrata un po' l'ultima di queste decisioni un po' bizzarre. Ecco perché si possa spiegare, si è scatenato l'interesse della stampa. Sì. Però lei stava spiegando motivi alla base di questa decisione. Esatto. L'altro motivo è che in realtà, ecco, noi forse, ecco, qui ci assumiamo, dico, come la responsabilità, abbiamo interpretato male la riforma universitaria del cosiddetto 3+2, no? Che ha trasformato appunto il percorso in un triennio, poi seguito dal biennio chiamato cosiddette lauree magistrali, al termine delle quali c'è la laurea. Cioè, vera e propria. Cioè, esatto, e lì credo che valga la pena, in qualche modo appunto valga la pena, sia giusto, sia assolutamente giusto festeggiare la laurea triennale. Ah, perché rimane la festa. Guarda, a questo mi scusi, io non l'avevo capito. Alla fine della magistrale non sono state tolte. Questo riguarda, è una decisione che riguarda un passaggio che per molti è italiani diamo un titolo propedeutico dopo il triennio, per molti è propedeutico, non è vero, esiste. anche in Francia c'è la licence e poi la maîtrise, per molti è propedeutico avere i 5 anni, per altri è la fine di un percorso, tra l'altro non so le statistiche, è un percorso intermedio, guardi, è un percorso intermedio, se mi le dico, io dicevo, mi era venuta in mente questa battuta con i ragazzi, voglio dire, non è che uno festeggia l'onomastico nello stesso modo in cui festeggia il compleanno. Allora, il passaggio del triennio, guardi, le potrei dire anche cosa vale in termini di crediti rispetto ai nostri crediti complessivi. Quanto per vale? Laurearsi in triennio i crediti sono 180 complessivi. Sì. La laurea vale 6 crediti, un trentesimo. Vale la metà, per esempio, di quello che vale il mio esame. Il mio esame vale 12 crediti. Quindi c'è stata un'enfatizzazione della laurea triennale che... Cioè, lei dice, togliamo enfasi a questa laurea, a questa laurea triennale. È un momento che non conta nulla. No, guardi, non mi faccia dire quello che non dico. No, ma non volevamo. Non è che conta nulla. Cioè, è la conclusione. Lo ha detto lei, percorso. Ha detto conta 6 crediti e poi si va avanti, si finisce il quinquennio, quindi certo, in un momento un altro, insomma. Certo, è un passaggio intermedio. L'università, cioè, guardi, io ho fatto il DAMS a suo tempo, vengo dal DAMS, quindi non c'è nessuna intenzione di ridimensionare il corso di laurea. Era una laurea quadriennale. La riforma ha spezzato questi 4 anni nel 3+2. Allora, il vero percorso complessivo universitario attualmente è quello del 3+2, anche per gli sbocchi lavorativi, quando ci sono. Beh, lei pensi solo all'insegnamento, lei non può andare all'insegnamento dopo i 3 anni, no? Ecco, quindi come prima. Quindi lei, diciamo, sconsiglia a uno di fermarsi dopo il triennio, non serve a nulla questa triennale. No, ho detto che non serve a nulla, è un passaggio di formazione, ma questo è quello che è il senso della riforma. Sì. Che poi piaccia o meno, guardi, è un altro discorso, no? che questa riforma, però dobbiamo ragionare in questi termini, quindi nell'abolizione delle proclamazioni di laurea a concorso anche questo anzi è stata una ragione importante infatti mi sembra molto più dal mio punto di vista mi sembra molto più comprensibile a questo punto, nel senso che se sta dicendo non facciamo la festa per il triennio perché la facciamo dopo il quinquennio, io l'approvo, diciamo, da un certo punto di vista l'approvo in quest'ottica. Non avevo capito, pensavo che fosse in generale che la proclamazione avveniva solo su via computer. Assolutamente, ecco, cioè guardi, le ripeto, forse è una responsabilità che dobbiamo collarsi anche come docenti. Non abbiamo a suo tempo capito o interpretato fino in fondo, forse eravamo presi dal fatto se ci piacesse o meno, la riforma del 3+2. Allora, certo. il passaggio del triennio una riforma però che mi sembra insomma che come dire, che non la convinca più di tanto, tutto sommato, forse, o no? Argomento in discussione, credo. Però non è l'argomento in discussione, però adesso indirettamente un po' così. Legge, stato, quando sarà la legge deve cercare di interpretarla nel modo più giusto, più ragionevole. Va bene, dobbiamo fermarci qua comunque. Grazie Claudio Marra, coordinatore del corso di laurea DAMS, aveva il compito non facile, diciamo, di difendere le non feste, insomma, era anche un po' facile per noi forse. Grazie. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo subito dopo 00024 tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sta cambiando ancora il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro, c'è sempre una canzone. Per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone, bagnata un po' nel vino. Mentre in furia la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. Le poltrone sono calde, stai lì seduti saldi finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare dentro il quadro generale che vorrebbero ma non possono ignorare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone caduta dalla luna. Questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato è C'è sempre una canzone di Ligabue, che è il brano suggerito da Nicoletta Curani, perché per lei esprime il si può fare della musica, ovvero la musica che c'è sempre a sostenerci nella nostra vita. Bello. Esatto, vi ricordiamo che aspettiamo sempre le vostre segnalazioni, il vostro si può fare in musica, ovvero una canzone che secondo voi esprime bene il concetto di si può fare, oppure se siete dei musicisti o dei compositori o dei parolieri potete anche mandarci le vostre canzoni o delle vostre produzioni personali. Lo potete fare sui nostri account social di si può fare trattino Radio 24, che è il nostro account di Facebook oppure su Twitter chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali di Twitter. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizio. Andate subito a scrivere, insomma, a postarci il vostro si può fare in musica, che ci piace sempre moltissimo vedere, certo, come interpretate con una canzone e poi noi dobbiamo scegliere per metterne su una. Cari amici amici ascoltatori, 800 24 00 24, questa mattina siamo partiti con il vice ministro ai trasporti Nencini parlando di riforma del codice della strada e di introduzione nell'ordinamento italiano del reato di omicidio stradale, molto atteso, insomma se ne parla da anni. Se avete da raccontare qualcosa, da commentare quello che, insomma, gli impegni che ha preso il ministro Nencini, insomma, impegni è una parola grossa, perché è tutto in discussione questa riforma del codice della strada, che era partita benissimo alla Camera, approvata, quasi avanguardistica per l'Italia, poi si è arenata lì. Buone notizie soprattutto per i pendolari, per i pedoni e per i ciclisti, e sottolineo questa parola. Poi tra poco faremo anche un collegamentino con la Stramilano, quasi. No, bello. Abbiamo l'assessore allo sport di Milano per un'altra notizia, gli chiediamo come sta andando la corsa e chi vince. E poi dobbiamo ricordare anche il nostro gioco. Noi, come tutte le domeniche, giochiamo alla ricerca del personaggio della settimana, ovvero un personaggio che abbiamo scelto perché è legato a Si può fare, come concetto, ma soprattutto perché c'è una notizia che lo riguarda in questa settimana. Il primo indizio l'abbiamo già dato ed era: ha lanciato una sfida. Do anche il secondo indizio, che è: ama la velocità. Ok, 800 24 00 24. Andiamo con Alfredo, che ci chiama da Verona. Buongiorno Alfredo. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo da Verona, in cui, sapete, l'anno scorso in provincia c'è stato un grave incidente dovuto all'ubriaco. Quattro ragazzi sono morti in una rotatoria. Ecco. E premetto che finalmente il governo il Parlamento stanno facendo qualcosa per questo problema. Io mi volevo parlare dei ciclisti. Io sono un ciclista, vivo a Verona e uso tutti i giorni la bicicletta. I ciclisti sono gli utenti della strada tra i più indisciplinati tra le varie categorie, perché non pensano che la bicicletta è un veicolo e è sottoposta alle norme del codice della strada per i veicoli. Quindi le stesse cose che valgono per un camion valgono per una bicicletta. Non si va sui marciapiedi, con la, con la differenza però che in bicicletta se ti mettono sotto muori, e col camion no. Mi faccia dire una cosa però. Non credo che ci sia qualcuno che vada spensieratamente incontro al proprio destino. Guardi, ci vanno perché io rischio anche io di farmi male. Per i ciclisti, e si fanno male loro, perché se contromano gli viene non voglio mettermi a fare l'elenco di storie che so anche personalmente di gente che è andata all'ospedale perché un automobilista ha aperto la portiera senza guardare, arrivava il ciclista. Ecco, senza arrivare a questo, guardi che la riforma del codice della strada, la stoppo subito, entro un po' a gamba tesa perché questo argomento mi sta molto a cuore. La riforma del codice della strada prevede anche questo, tipo la targa per le biciclette. Quindi quello che lei dice è giusto, però si deve inserire in un miglioramento delle condizioni del traffico per i ciclisti. Allora, perché se ci fosse una perché mi faccia finire in una città come Milano, dove ci sono per esempio i binari del tram e il pavé da tutte le parti, circolare in bicicletta è un atto quasi di eroismo, quindi bisogna avere anche un po' di comprensione. Guardi, io sono ciclista. Ma infatti è vero che esistono ciclisti, come in tutte le categorie, che fanno delle follie e vanno contro il codice della strada. È anche vero che molte volte i ciclisti sono costretti, per esempio, ad andare sul marciapiede perché in mezzo alla strada rischiano di morire, magari hanno dei figli con sé. Quello che volevo dire ci vogliono le piste ciclabili. Qui a Verona le piste ciclabili ce ne sono pochissime. Poi sono tutte interrotte. Andate da Tosi a chiedergli le piste ciclabili anziché mettersi a fare politica nazionale. Grazie Alfredo, grazie per essere stato con noi. Buona domenica. Allora, dove andiamo? Credo che Tosi in questo momento abbia proprio in testa come suo principale. È quello il problema, che non c'hanno mai in testa queste cose qua. C'è sempre qualcos'altro. Mi stavo immaginando Tosi in questo momento mentre viene cacciato dalla Lega, Salvini. Oggi ho visto Bossi che dice: è stato un errore, scriva a me Tosi per farsi riammettere nella Lega. E me lo immagino invece con giustamente dei ciclisti che dicono: facciamo ste piste ciclabili. Eppure a Verona so che hanno investito molto sul bike sharing, per esempio, proprio con Tosi, e anche su altre cose tipo queste. Maurizio da Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Per affrontare un argomento un pochettino più leggero, riferendomi al discorso delle feste di laurea, della propria preparazione. Giusto, visto anche che chiama da Bologna. Sì, volevo dire che innanzitutto non è vero che le lauree triennali sono, tra virgolette, inutili. Ci sono alcune professioni, come quelle delle classi sanitarie, infermieristiche, fisioterapia, logopedia, che praticamente nessuno fa la magistrale, perché già con la triennale puoi esercitare come servizio sociale, per diventare assistente sociale, È quella, certo, è quella l'ambiguità che io facevo notare a Marra, professore del DAMS, che diciamo o la fai la laurea triennale, in alcuni casi serve, allora la puoi anche festeggiare, oppure se non la fai, cioè se non ha senso non farla, non so come dire. Guardi, è una questione di risparmio, perché a Bologna in alcune facoltà, non entro nel merito del DAMS, hanno già smesso addirittura di discutere la tesi, la triennale, sì, c'è stata una proclamazione. Perché tutti vanno al quinquennio, tutti concludono con 5 anni, e quindi... Non tutti, ci sono, come ho detto prima, alcune lauree in cui la gente si ferma allo studio. No, in alcune facoltà, tipo il DAMS, sì, probabilmente tutti finiscono nei 5 anni, quindi la triennale sta perdendo di senso, forse è questo che sta succedendo. Sì, non, io non la vedo. Ma lei ha fatto non il DAMS? Non in infermieristica, mi sembra di aver capito, giustamente lei dice... No. Sì. In infermieristica molti si fermano dopo il triennio. Non solo infermieristica, tutte quelle delle classi triennali sanitarie. Sì, sì, va bene, cioè, Maurizio, però ci dica lei che cosa ha fatto? Il DAMS o infermieria? Io ho fatto scienze dell'educazione e servizio sociale. Triennale? Ho due lauree triennali che mi permettono di... A parte di... Quindi abbiamo un difensore delle lauree triennali. Ha preso due, ne ha prese due, tre fa sei. Lei la festa ce l'ha assolutamente di diritto. Non c'è due senza tre, Maurizio. No, magari se avrò tempo in alcune lauree, come le classi pedagogiche, dopo scienze dell'educazione, il magistrale è un pochettino un pro forma, più che non... Va bene, va bene. Grazie Maurizio, grazie per essere stato con noi. Buona domenica. Hai visto le lauree triennali? Sì, voglio andare alla festa della terza laurea triennale. Contano quello... talmente tanto che c'è chi ne prende due. Esatto. E poi, come dicevamo prima, che ci siamo dimenticati di chiedere al coordinatore, la vera questione è l'indotto di tutte queste feste per Bologna dovrebbe essere enorme. Secondo me è su quello che probabilmente lascerà una protesta, che uno dice: ma come? Abbiamo i bar dei portici, abbiamo 120 feste tutte le volte che fanno la programmazione. Anzi, se avete un bar dentro il centro di Bologna, nei portici di Bologna, e volete lamentarvi per la fine delle feste laureal dance, chiamate e dite: si fa una festa per ogni esame. Secondo me, per ogni esame sopra 18, festa. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si può fare, e abbiamo Alessandro che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono un vigile urbano e volevo... Ci siamo zittiti perché abbiamo detto: oddio, ci sono i vigili, la multa. No, ma sono fuori di servizio, quindi stai tranquillo. Perfetto, tranquillizziamo tutti, poi non c'ho la patente, quindi... Sì, visto che la trasmissione si chiama Si può fare, vediamo delle cose che si possono fare e che forse possono essere utili. Sì. Quello che praticamente io mi accorgo, ma noi ci accorgiamo poi operando per strada, è che molti non sanno guidare i mezzi. Non sanno guidare le moto, non sanno guidare le macchine e finanche non sanno guidare le biciclette. Ce ne accorgiamo anche noi che non facciamo i vigili. Esatto, ed è abbastanza semplice, di facile lettura. Probabilmente bisognerebbe tornare indietro e guardare il modo in cui si prende la patente. Forse è troppo difficile la parte teorica, dove molti cadono, e quello, diciamo, è un business per le scuole guida. E poi è troppo facile l'esame pratico, quello che poi serve una volta in cui si va per strada, perché poi è inutile sapere, forse sarà cambiato l'albero, io non ci capisco nulla, io non so neanche cambiare una ruota, fermo restando che so guidare molto bene. E forse conta più il modo in cui si guida, diciamo, la pratica, il modo in cui si fa lezione, fargli fare delle cose anche complicate, perché poi molti non sanno fare le cose più elementari. Ma sta dicendo che bisognerebbe a scuola guida imparare anche a cambiare le gomme? No. Dicevo che non è quello. È importante proprio quando si guida, come si parte, come si fa un'inversione, come si fa un parcheggio a sinistra piuttosto che a destra. Forse la cosa che si potrebbe introdurre è di fare degli esami successivi, perché più che un esame, uno che cosa può fare? Non è che può fare un mese di pratica insieme a un istruttore. No, anzi, quello lo si fa, la pratica. Ma dico, l'esame poi dura, non so quanto dura, mezz'ora, un'ora? Ma forse dura anche meno, perché poi dipende dal tipo anche di presentazione della scuola guida. Il fatto dei richiami sicuramente potrebbe essere positivo, ma io metterei anche dei limiti. Secondo me vi sono alcune persone che fisicamente, per come sono fatte, non possono portare determinati veicoli. Parlo dei SUV, parlo delle moto. Fateci caso, a volte ai semafori ci sono persone che guidano una moto e non toccano terra con i piedi. Però sta dicendo una cosa molto difficile, nel senso che sta è quasi un discorso lombrosiano. Secondo lei ci sono delle persone che possono guidare i SUV, cioè, e altre che non dovrebbero avere il permesso? Forse non ci, sono abbastanza regole, ci vuol dire anche da questo punto di vista, Alessandro. Beh, in Italia che non ci sono abbastanza regole in Italia. Su questo potrebbe essere un suggerimento di lavoro per il ministro Nencini. Grazie comunque, Alessandro, da Roma. Grazie mille. Cioè, lavorare sulle misure fisiche per poter guidare. Io però di gente che non arriva a toccare i piedi sullo scooter in terra non ne vedo. No, beh, ce n'è anche, però insomma. Ma come ce n'è anche? Penso che anche i nani potranno usare il motorino, in questo senso. Ma soprattutto volevo consigliare invece a dire che comunque quando si fa la patente lì si fa la festa. Richiamiamo il coordinatore. Soprattutto se uno ci mette 3 anni a fare la patente. Senti, facciamo un altro ascoltatore al volo. Va Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chiamavo per provare appunto a indovinare il personaggio. Sì. Mi è venuto in mente Alex Zanardi, perché ultimamente ha lanciato la sfida a 2 normodotati per una gara di velocità. È vero. Il prossimo 25-26 luglio. Direi che soprattutto lui lancia sfide per lavoro, esatto. Tutte le mattine quando si sveglia e la sera prima andare a letto pensa cosa farà il giorno dopo. Incredibile. È una sfida vivente. Antonio, non era Zanardi, ma però, anche se ci piace molto che sia stato introdotto così da lei in trasmissione. Adesso è il momento di un'altra storia molto bella. Parliamo di fumetti, di disegnatori, di contadini che stanno nelle vigne e producono vino buono, e parliamo di editoria indipendente, tante cose insieme mescolate, chissà cosa ne salta fuori. Vai. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? Ah, che bel momento. Un sasso nella bellissimo Possela, domenica mattina Radio 24. L'inizio fa venire più voglia di Lambrusco che di Stramilano, se possiamo assolutamente dirlo. Assolutamente, ma è questo di cui andiamo a parlare. Salutiamo Sandro San Giorgi, esperto di vini, nonché scrittore ed editore. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno. Allora, parliamo di un caso editoriale nato in Francia, un libro a fumetti scritto da Étienne Davodeau, si pronuncia così? Sì, perfetto. Che nasce dall'incontro tra quest'autore e un viticoltore, Richard Leroy, uno dei... Sì, abitano vicini. Abitano vicini, sì. Quindi l'incontro e anche, poi vedremo, uno scambio di ruoli tra di loro. Questo produttore di vini biologici in Francia. Ne nasce un libro dove appunto si parla di questo, cioè della terra, di contadini che producono il vino buono, che diventano addirittura gli eroi quasi di questa nostra modernità. Un libro che lei, San Giorgi, ha deciso di portare in Italia, da editore, che verrà presentato tra l'altro credo proprio oggi a Milano, tra a pochi minuti, al Book Pride. Al Book Pride, esatto. Manifestazione dell'editoria indipendente molto importante. Allora, ci parli di questo libro e di come è venuta l'idea di portarlo qua da noi. Allora, intanto grazie dell'opportunità di parlare del libro e di parlare di Book Pride. Il libro arriva nella redazione di Portos, la casa editrice di cui sono amministratore, una mattina di febbraio del 2013, da un regalo di un amico che arriva a Parigi, vede l'ultima copia disponibile, la mette in una busta e la spedisce. Dopo 10 minuti dal primo sguardo, io chiamo Futuropolis, e dice la casa editrice, Eh sì, esatto, però era già preso. Aia. I diritti erano già presi, sì, da un'etichetta, da una casa editrice molto importante sulla graphic novel italiana e internazionale che si chiama Coconino. Eh sì, che conosciamo. Esatto, e che aveva già pubblicato da Vodò, tra l'altro, e quindi era naturale, era un passaggio naturale. Io a quel punto cerco un contatto con Coconino e cerco di generare almeno una consulenza sull'ambito, diciamo, viticolo enologico, e da lì siamo cresciuti, ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a condividere pensieri. È nata prima una coedizione e poi in realtà, per motivi di carattere finanziario dovuti al fatto che Fandango, la casa editrice madre, aveva cominciato a spostare alcuni progetti editoriali, i diritti sono diventati tutti di Porto Sedizioni. E avete deciso a quel punto di pubblicarlo voi? Ci abbiamo messo un pochino in più rispetto ai nostri progetti, ma alla fine il risultato ci ha gratificato e ha gratificato molto anche da Vodò. Ecco, San Giorgi, però ci parli proprio di quello, perché questo si tratta di un libro che ha venduto un sacco di copie. Ora, infatti, ricordiamo che in Francia ha venduto 100.000 copie. C'è un'altra cultura del fumetto in Francia. Sì, non solo c'è un'altra cultura sicuramente del fumetto in Francia, sicuramente ci sono anche un'altra cultura del vino. Del vino, ci sono anche strani meccanismi che orientano le scelte dei lettori, per cui ci sono libri che schizzano in cima a tutte le classifiche, non si sa perché, altre volte. Ecco, però forse in questo caso degli elementi per spiegare questo successo ci sono. Quali sono? Allora, questi due signori, dicevo, abitano vicini, e questo è già un dato interessante, perché Davodò ha scelto di vivere in un territorio, quello della Loira, vicino al torrente, al fiume Laion, che non è un posto, diciamo, dove ci sono meccanismi commerciali particolari. Un giorno questi due signori si incontrano tra i tanti incontri che fanno, e Leroy gli fa una domanda di carattere editoriale. In quel momento Davodò ha percepito proprio l'ignoranza che li contraddistingueva tra il lavoro dell'uno, uno lavoro nel terreno dell'altro, sul campo, esatto, dell'altro, sul campo è proprio il caso di dirlo, tra l'altro, per e il caso in quel momento nasce la sua idea. Si presenta da lui dopo qualche settimana e gli dice: vengo a lavorare da te gratis per un anno, con una sola condizione, ti chiedo solo una cosa, tu farai con me un percorso di conoscenza del fumetto, ti lascio 2 o 3 giorni per pensarci. Allora si vede nell'immagine proprio iniziale, sono le prime inquadrature, sì. Davodò scrive e disegna, è uno dei rari casi in cui lui è autore del testo e autore anche dei disegni, e c'è Leroy che si allontana, torna con dei bicchieri e una bottiglia e gli dice: ho già deciso, va bene, senti qua, e gli fa assaggiare il vino, e quindi si parte dall'assaggio del vino. Questo è molto interessante, cioè lui non dice adesso cominciamo subito, ti faccio vedere questo, ti faccio vedere questo strumento, no, parte dall'assaggio del vino. E mi sembra un ottimo inizio, chiaramente. I dubbi si sono sciolti subito nel bicchiere. Parliamo tra l'altro di che tipo di vino, perché questo Leroy è un produttore di vino biologico. Biologico, naturalmente certificato, ma in realtà lui è uno dei più significativi rappresentanti dell'attività dei coltivatori biodinamici. Questa sì, è la sua principale attività, la coltivazione e quindi l'agricoltura biodinamica. In cosa prima differisce un vino biologico, scusi San Giorgi, glielo voglio chiedere, però, da un vino normale? Perché su questa questione, naturalmente c'è una lunga scuola di approfondimenti, di pensieri sul biologico, l'Italia tra l'altro è un importante rappresentante, la Francia pure, però sul vino, il vino biologico, noi siamo abituati a parlare delle nostre eccellenze vinicole, ma un po' meno del vino biologico. Esatto, il vino biologico e in particolare il vino ottenuto da viticoltura biodinamica si distingue perché ha una maggiore vita dentro. Nelle scelte produttive, sin dal vigneto fino all'imbottigliamento e quindi alla vendita, il produttore con questi principi mette in gioco molta più vita del vino, e quindi molto meno controllo, molta più custodia e meno intervento, e quindi i vini hanno un carattere di grande originalità e quindi per questo possono anche sconvolgere, spiazzare appena li si incontra, per esempio, anche con meno trasparenze, meno diciamo qualche residuo, qualche cosa, come erano i vini di una volta, insomma anche i vini in qualche modo sì, solo le dico solo questo: è importante che queste trasparenze, queste torbidità, questa storia dei vini di una volta non diventi poi la scusa dei difetti, perché certo, quello che stiamo cercando di fare da un punto di vista della comunicazione del vino naturale, quindi del vino ottenuto da viticolture sane, rispettose della natura, è che il vino è una questione anche di capacità tecnica, di conoscenza, di competenza. La cosa interessante, al di là delle velature, è proprio che quando il vino entra dentro di noi, quindi ci attraversa, sentiamo una vita che viene immessa dentro di noi. Mm. I vini che vengono concepiti con una viticoltura molto più legata all'intervento e quindi al, sì, controllo, e quindi diciamo che invece che costruire una vita cercano di negare la vita, quando li immettiamo dentro di noi sono come degli alimenti morti e quindi non ci portano niente di buono. È bello che appunto alla parola biologico lei faccia seguito proprio a questo concetto di vita, perché è proprio questo, no? Anche l'origine etimologica della parola. Abbiamo però lasciato, esatto, i nostri due eroi, Davodò e Leroy, il vignettista, l'autore e il viticoltore, a questo primo incontro, a questo bicchiere di vino. Ne nasce questa graphic novel, questa storia. Qual è l'epopea, insomma, la storia che si racconta e che ha appassionato i francesi sul tema appunto di cui stiamo parlando, l'agricoltura biologica e il vino? Davodò è un grande autore prima di essere un grande disegnatore, e quindi è capace di scrivere le storie prima ancora che trasformarle, e quindi i dialoghi prima di tutto, le situazioni e le inquadrature e quindi la sceneggiatura hanno una forza solidissima, e questo è appassionante immediatamente quando le vignette successive riguardano la potatura. Quindi deve sapere che la Loira è un posto piuttosto freddo, e quindi quando la mattina dopo si incontrano sul presto per cominciare a potare, si percepisce dai disegni, che sono in bianco e nero, non sono a colori, si percepisce fino in fondo la temperatura dell'ambiente, ma nello stesso tempo anche il calore delle due persone che si stanno impegnando. E da lì comincia tutto il percorso. Quindi Davodò fa il vino con Leroy. Quindi l'epopea è proprio la nascita del vino vista dagli occhi di uno che fino al giorno prima non era mai stato, non aveva mai fatto una potatura, per esempio, di una vigna. Per esempio, non aveva fatto una potatura, non aveva fatto una legatura, non aveva fatto una zappatura, non era entrato in cantina per fare un travaso. E mi sembra di capire, non aveva mai ascoltato. Mi sembra di capire che il fumetto è un buon mezzo per raccontare il mondo del vino, giusto? Questo. E anche come. E anche come, la narrazione per immagini, sì, è anche come un mezzo straordinario. E anche come ci si può appassionare, perché credo che questo possa essere un tema che spieghi il successo. 100.000 copie vendute vuol dire che, insomma, si va al di là degli appassionati di vino, si va al di là degli appassionati solo di agricoltura biologica, cioè proprio l'avvicinarsi alla terra, l'avvicinarsi a questa scoperta. Probabilmente attraverso gli occhi di Davodò i lettori hanno potuto fare questa riscoperta. È una riscoperta che in Francia ha trovato terreno fertile, e devo ammettere che anche in Italia noi abbiamo cominciato, siamo usciti un mese un pochino fa, e devo ammettere che anche l'Italia sta reagendo piuttosto bene. Non so se perché c'è questa novità, se è solo una novità, e mi auguro di no, mi auguro che questa sia una scelta di costanza da parte delle persone, che quindi via via si appassioneranno. Però c'è il terreno per far capire alle persone il significato di vita della terra prima ancora come base di vita degli alimenti. Perché vede, il vino è sicuramente una bevanda di piacere, una bevanda edonistica, un nutrimento spirituale, ma nello stesso tempo è un alimento che noi mettiamo nel nostro corpo, nel nostro organismo, e dato che ha già un piccolo problema, è una battuta naturalmente, cioè quello di portare dentro l'alcol, se ci sono altre manifestazioni negative, questo complica ulteriormente le cose. Allora, noi trasformiamo proprio quello che immettiamo in energia, in situazioni, situazioni positive dentro di noi, e il vino, che è di per sé un mezzo eccezionale, è un po' come il fumetto, cioè il vino e il fumetto insieme sono due mezzi di trasmissione di conoscenza. Perfetto, ecco, questo... ma ci dice anche come sta andando Book Pride, che siamo interessati. Vogliamo ricordare che oggi è l'ultimo giorno di Book Pride, che è a Milano fino a oggi. Sta andando benissimo, tanto che le persone sono così tante che ogni tanto bisogna uscire a prendere un po' d'aria, quindi questa prima... Sono contento perché adesso vengo a trovarvi, voglio venire a trovarvi, ricordiamo è ai frigoriferi milanesi in via Piranesi al 10, Book Pride. Al 10. Benissimo, benissimo. Scusa se vi ho trattenuto troppo. No, per niente, assolutamente. Invece ci ha incuriosito molto. È una storia tutta da raccontare, tutta da leggere, soprattutto vogliamo ricordare il titolo? Gli ignoranti. Edizioni Portos. Perfetto, grazie sì. A Sandro San Giorgi. A fra poco a Book Pride. Che è l'editore di questo in Italia, di questo caso editoriale francese, straordinario, eh? Bello, che ci porta proprio a scoprire, io la voglio dire così, in maniera semplice, banale, le nostre tradizioni, l'agricoltura, attraversare un campo, affondare i piedi nelle zolle, andare la mattina col freddo a fare la potatura, entrare in una cantina, vedere il mosto che nasce, l'uva pestata. E poi il vino, sono cose certo straordinarie. Punto. E poi quando arriva il vino c'è ancora più gusto. Stavo aspettando il momento dello stappo. A tra poco, pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buona domenica. Tra poco ci collegheremo con l'assessore allo sport del Comune di Milano. Vediamo come sta andando la Stramilano, ma soprattutto faremo un commento, assessore, anche al benessere, alla qualità della vita, sulla giornata del lavoro agile che c'è stata in settimana. Una cosa tutta da conoscere, tutta da capire. Abbiamo però Antonio che ci chiama da Viterbo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì. E niente, volevo provare a dare la risposta sì. Per il personaggio della settimana. Chi è secondo te, Antonio? C'ho due dubbi. Però provo a dire Valentino Rossi. Ah, Valentino Rossi. Motivo? Notizia? Perché ha lanciato la sfida a Marquez. Certo. Giusto. Per vincere il decimo mondiale. E poi, lancia sfida, ma la velocità, notizie su Rossi, chiaramente poi si parte con la MotoGP, ma non è il personaggio lui. Che abbiamo scelto per questa settimana. Ti ringraziamo molto, Antonio, grazie per aver partecipato. Insomma, era giusto dare una risposta del genere, no? Se parliamo di velocità, riepilogo e do il nuovo indizio. Il nuovo indizio è che il nostro personaggio in realtà è una coppia di personaggi, sono due, uno assieme all'altro, e gli altri indizi erano che questa coppia di personaggi ha lanciato una sfida e sono due personaggi che non temono la velocità. Assolutamente, 800 24 00 24. Vai. Prende bene stare fuori oggi che è primavera. Prende bene andare in giro con il sole che saluta la sera. Oggi che è primavera. E ho buttato via i pensieri, via la noia e il magone. Li ho buttati tutti quanti stamani, tutti dentro un bidone. E fuoco col kerosene. E a modo mio, sono contento un poco anch'io. E a modo mio. Negrita, a modo mio, oggi che è primavera. Insomma, ci sembrava il modo giusto, solo qualche nota accennata. Grazie come sempre ad Andrea Piana per i suggerimenti musicali, il nostro autore, per introdurre che cosa. Intanto diamo il buongiorno all'assessore già annunciato al benessere, allo sport, alla qualità della vita, Chiara Bisconti di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per parlare della giornata del lavoro agile, che cos'è il lavoro agile? È più, cioè, io sintetizzo quello che fai da casa tua, poi però assessore adesso lei ci spiegherà tutto per bene. Però diciamo intanto sì. Subito una cosa, giornata del lavoro agile che si è svolta giovedì, che edizione è a Milano? La numero? La seconda. La seconda edizione, facciamo subito un bel bilancio. Lei però è in mezzo al via vai della corsa milanese, a Stramilano. Come sì, sta sono andando? Nel castello ed è una scena bellissima. All'interno del castello sta passando la Stavignano dei bambini, quella dei 5 chilometri, e nel frattempo si scaldano gli atleti della 21. Quindi è un momento davvero molto bello. È stato un gran sole, un momento di primavera. E quelli della 10 non li ha visti passare? Quelli... Li abbiamo visti partire e stanno passando fuori dal castello. Ma insomma, diciamo che c'è tutto il centro di Milano invaso da gente. Il che castello, una scena molto bella. Diciamo una cosa milanese, ma insomma che può interessare anche i non milanesi. Castello pedonalizzato, progetto della Giunta Pisapia. L'abbiamo detto indirettamente, pedonalizzato. Favorevoli, contrari, io spero più i favorevoli, biciclette che circolano, insomma queste sono le scelte della, dell'amministrazione Pisapia. Poi ognuno, fra l'altro ci saranno le elezioni, deciderà se gli è piaciuta o io no. Sì. Assolutamente, io però dico che poi esserci in una bella zona pedonale con la gente che si gode il sole, quello è molto bello. Poi penso quello di che sì. Vuole, però nei fatti è molto bello. Penso proprio di sì. Noi qui siamo ultra super favorevoli, non alla giunta Pisapia, ma a tutte le giunte che fanno queste scelte. Abbiamo prima citato Tosi a Verona che ha fatto delle cose sul bike sharing, ci sono altre città che hanno pedonalizzato. Bisogna farle queste scelte perché si recuperano spazi, città si vive, si sta bene. A proposito di tutto questo, però, torniamo a noi. La giornata del lavoro agile, di che si tratta, come è andata? Allora, un'idea semplicissima al lavoro agile non è lavorare da casa, è permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di scegliere il luogo e i tempi in cui si lavora durante la giornata, quindi è ancora più semplice rispetto a dire lavori solo da casa. È andata benissimo questa seconda giornata in un crescendo di aziende e enti locali che partecipano e di persone che lo possono fare. E la cosa molto bella è che noi le misuriamo i vantaggi e ogni volta che ci lavoriamo vediamo che ci sono sempre e solo vantaggi. Quindi è una cosa che non è che si può fare, si deve fare, questo ormai l'abbiamo capito. I vantaggi sono per le persone che dedicano il tempo del loro lavoro con una qualità diversa, magari stando appunto via dall'ufficio, stando a casa, stando dove vogliono. Per le aziende, e sono ormai vantaggi misurati, sì, costi molto importanti, ma davvero ormai si possono proprio fare queste scelte pensando di risparmiare parecchio sui costi, i costi di layout dell'ufficio, i costi straordinari, i costi di assenteismo che si abbassano. Ecco, avete fatto delle stime anche di questi? Perché diciamo una cosa, ci sono aziende che già consentono ad alcune aziende, ma è una piccola nucleo, piccola avanguardia, dipende anche dal tipo di lavoro, dalle tecnologie a disposizione, dalle scelte che vengono fatte, che già consentono queste forme di lavoro agile. Altre che invece lo fanno solo in occasione della giornata che il Comune di Milano propone, proprio per fare il punto, per sperimentare e vedere. Ci sono delle stime su quello che si potrebbe anche, per esempio, come diceva lei, risparmiare se questa cosa diventasse realtà? Allora, Politecnico di Milano e anche la Sta Bocconi hanno tutte le cifre, ma si parla di riduzione dei costi, per esempio, di assenteismo e di straordinari del 30-40%, e la cosa più interessante è anche l'aumento della produttività. Quindi a parità di costi invece si è misurato un aumento del rendimento delle persone. Io però ci tengo sempre a raccontare il dato che mi piace di più dal punto di vista dell'impatto sulla comunità, è che l'abbiamo misurato l'anno scorso e quest'anno sta tornando la stessa cifra, le persone risparmiano in media 2 ore al giorno lavorando in questo modo. 2 ore di tempo regalato, che le persone si possono regalare e da utilizzare come vogliono. È chiaro che si può pensare a prendersi cura di se stesso, a riposarsi, ma si può invece pensare, lo racconto sempre, a provare a diventare un cittadino attivo della propria comunità. In fondo, se uno dedicasse una di queste 2 ore di tempo risparmiato a occuparsi del suo territorio, della sua città, a fare volontariato, a occuparsi davvero attraverso le associazioni di quello che è un buon civismo, una buona vita attiva, davvero si apre uno scenario di possibilità di vivere anche un po' in modo diverso rispetto allo stress a cui siamo abituati, per cui bisogna correre in ufficio, stare fermi nel traffico, davvero vivere in modo negativo la propria giornata di lavoro. Questo è l'aspetto che a me piace ricordare di più, perché 2 ore al giorno sono davvero tante, secondo me. È giusto, non è poco. Mi chiedo scusa se interrompo questo idilio anche su giustamente biciclette e Stramilano, ma essendo lei anche assessore allo sport non posso esimermi dall'annunciare che Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Malesia e è una notizia straordinaria per la Ferrari e per tutti gli italiani. Ma chiedo scusa per l'interruzione. Così è così, un attimo di sono entrato a gamba tesa. Va bene, io posso provare a mettere insieme, dico solo 2 cose. Prima parlavo di una città penalizzata, bella, una città che si presta a essere vissuta come questa domenica fantastica. Il lavoro agile si nutre o si trova molto bene in una città che si ripensa come città smart, come città davvero dove nelle proprie piazze e parchi ci si può fermare con il wifi a lavorare. È un modo non solo di rivolgersi all'azienda, ma proprio di ripensare l'intera città come città che può essere fruita in modo diverso. Lei parlava di tecnologia, ormai la tecnologia davvero permette di lavorare dappertutto, quindi tenere insieme i due piani della libertà individuale, del recupero del tempo e di una città che si propone come città dove si può lavorare in questo modo è la chiave vincente per andare avanti. Grazie Chiara Bisconti, assessore. Grazie mille assessore. Al benessere allo sport di Milano. E voi invece, cari ascoltatori, se avete storie per esempio nelle vostre aziende dove si mettono in pratica esperimenti come questi o dove è già la vita quotidiana lavorativa, forme di lavoro agile come queste, scrivetecele, si può fare a radio24.it, a noi ci piacerà sicuramente di raccontarle. E adesso direi che facciamo una piccola pausa per il traffico, poi torniamo sul personaggio della settimana che questa settimana non forse è la settimana che non riusciamo che non ad assegnare chissà, il premio. Intanto festeggiamo Vettel. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, abbiamo Emanuela che ci chiama da Macerata. Buongiorno Emanuela. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire Emanuela? Io volevo intervenire sul personaggio della settimana. Oh, perfetto. Bene, speriamo di risolverlo anche questa settimana. Ci dica tutto. Speriamo. Allora, io penso che siano Gianni Morandi e Claudio Baglioni. E la notizia qual è? La notizia che faranno un tour insieme. Giusto. Ho sentito dire così. La notizia è giusta, la risposta coppia purtroppo è sbagliata. Va bene. Grazie però Emanuela. La ringraziamo moltissimo. Buongiorno. E buona domenica. Grazie Emanuela. Sì, in effetti hanno annunciato questo tour, diciamo questa coppia inedita. Credo che sia inedita. Sì. Sì, due, anche perché Morandi insomma ha duettato credo con il 90% degli artisti italiani, forse mancava giusto Baglioni. Andiamo con Maria da Aosta, buongiorno. Pronto? Prego. Prego. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo dare la risposta per il personaggio, anzi sono i personaggi. Brava, perfetto. Esatto. Sì. E si io tratta? Ho pensato, anche se non sono informatissima sulle ultime notizie riguardo allo sci, perché sono due sciatori, sono i fratelli Origone. I fratelli Origone, per quale motivo Origone? Perché hanno partecipato alla Libera e sono due fratelli, quindi sì. Questo è il motivo per cui. Beh, certo, hanno sicuramente lanciano sfide in quanto sportivi, amano la velocità perché sennò non sarebbero sciatori professionisti, sono una coppia, ci stava tutta. E sono anche fratelli, quindi in realtà sto quasi dando un mezzo indizio, la risposta non è giusta, ma potrebbe aver aiutato i prossimi ascoltatori che chiameranno. Diciamo la strada è un po' quella. Della parentela, il della vincolo fratellanza che lega questi due personaggi è un vincolo, era è un corretto. Vincolo, è un vincolo. Basta. Vediamo se ci arriviamo entro la fine della puntata oppure se dovremo annunciare che nessuno ha vinto. E che cosa succede? Si mantiene il personaggio per settimana? Non so, non conosco il regolamento, tocca chiamare il notaio, non so se dobbiamo mantenere esatto. Lo stesso personaggio per settimana prossima oppure possiamo svelare il personaggio o raddoppiare il premio, non lo so. E usarne un altro la settimana dopo, dobbiamo decidere dopo entro... ci riuniamo in camera di consiglio nei prossimi 3 minuti, entro 7 minuti, esatto. Allora adesso è il momento delle notizie sul crowdfunding. Federico Taddia. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Buongiorno e buona domenica Federico Taddia, come stai? Tutto bene? Molto bene, grazie. Avete scritto il regolamento del gioco nel frattempo? Esatto. Siamo molto in forza, potremmo chiederti una consulenza Fede, però non so se gli ascoltatori sono interessati a questa conversazione a tre sulle regole del personaggio della settimana. No, io direi che diciamo che sveleremo chi è se nessuno indovina alla fine della puntata e basta, senza assegnare il premio. Perfetto, siamo un'ottima idea. Oppure facciamo un crowdfunding per trovare dei soldi per trovare un notaio. Esatto, per trovare un notaio. Veniamo. Prego. A noi Fede. Cosa allora, ci racconti? La segnalazione riguarda una nuova piattaforma nata in Sicilia in questi giorni, si chiama Laboriosa ed è una piattaforma sociale, un contenitore di progetti di crowdfunding che abbiano ovviamente finalità etiche, solidali e culturali. È una bella piattaforma, una bella esperienza, racchiude vari progetti già in atto. Vi volevo segnalare il primo, che è la rotta per la legalità, recupero in barca a vela minori a rischio, si chiama Vega Vela, sì, ciao, Velegalmente, esatto, progetto di educazione alla legalità e recupero delle devianze giovanili, è giunta la terza edizione, stanno cercando ovviamente finanziamenti per sì. poter acquistare tutto il materiale necessario al restauro di questa barca, al noleggio dell'imbarcazione, il carburante, la cambusa. È un progetto importante perché sono ragazzi del carcere minorile che hanno la possibilità di fare un periodo di vacanza, chiamiamola così, in barca a vela, che come già abbiamo detto più volte è comunque una situazione di recupero molto importante. È promosso bene. Dall'associazione sociale Centro Coros e dall'ufficio dei servizi sociali minori di Catania. Laborioso.it, come sempre si possono donare piccoli importi, già da 2 euro va bene, in cambio si ha un ringraziamento, e fino a 1000 euro con un posto in barca a vela per la veleggiata durante una regata intitolata Pippo Fava, quindi una bella situazione. Direi che più di 1000 euro diventi l'armatore direttamente della barca. Non è male. Non e è potrebbe male. Essere una cosa anche quella. Poi Fede? C'è tempo per un secondo progetto un po' folle. Certo, un secondo sì. progetto un po' folle si chiama Super Sesso 70. È un film. L'idea è quella di realizzare una parodia dei film erotici anni 70. È un progetto articolatissimo perché sulla piattaforma Indiegogo c'è la richiesta di una raccolta che arriva fino a 200.000 euro per questo progetto, che è voluto da un Nicola Piovesan, che è un giovane regista italiano che vive in Estonia, e ha lanciato questa idea proprio di fare una parodia, ma curata nei minimi dettagli, di quelli che erano i film B-movie anni 70. È molto bella la descrizione del suo lavoro, dice che non ci sarà penetrazione, al massimo si potrà vedere qualche capezzolo, ci saranno falli finti e pelo finto. Fermiamoci qua un attimo, perché... E allora vabbè, i 200.000 cosa servono se è tutto finto? No, perché insomma vuole realizzare un piccolo colossal nel suo lavoro. E, ma quali sono le ricompense a questo punto? Voglio sapere se è una parte nel film. No, fermi, si possono dire, Fede? No, si possono dire, no. Perché lui c'è, cioè, tutto, insomma, tutto assolutamente... Tutto alla luce del sole. Alla luce del sole. Le ricompense sono il post, un euro la gratitudine, che sappiamo che questo ormai è perfetto, costa va poco. Da sé, va da sé. Esatto. Poi, siccome fa anche delle finte censure, dai 30 euro in su ci sarà la copia del film senza le finte censure, però sì, con 500 euro potrei avere una parte nel film, e quindi insomma ecco. Quello dove voleva arrivare Carlo, io esatto. Lo sapevo. Fede, dobbiamo fermarci qua. Io ricordo, grazie intanto, le notizie sul crowdfunding di Federico Taddia, che trovate tutti i dettagli sul nostro sito, si può fare su Radio 24. Adesso però abbiamo Cristina da Vicenza in 30 secondi, è l'ultima che dà la risposta sul personaggio della settimana. Incrociamo le dita, Cristina. Buongiorno, lei. Buongiorno. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Pensavo che mi avessero collegato in qualche programma di soft porn. No, c'è stato un attimo di confusione. Le chiediamo scusa, anzi. Il personaggio, siamo sempre noi. I due personaggi astronauti, i gemelli astronauti. I fratelli Kelly della NASA, vado per sintesi perché so che lei al centralino ha già dato la risposta corretta, abbiamo poco tempo, erano loro. Ma siamo felicissimi. Grazie. Perché avevamo il terrore di non riuscire a assegnare dare il premio il weekend al relè Porta Rossa di Povegliano Veronese, messa a disposizione dal Comune Virtuoso di Povegliano Veronese. Grazie Cristina. I gemelli, grazie mille. Che sfideranno uno stando sulla Terra bellissima che e l'altro nello spazio per un anno, il Palazzo Gemelli di Einstein, e si studieranno le differenze, una storia che meriterebbe un'intera puntata, ma è noi vero, siamo in chiusura. Sono emozionato. E quindi salutiamo tutti, ringraziamo Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta con noi anche oggi domenica, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Peter Pescapa in regia. E buona domenica! La tua prima presentazione del libro, Carlo, quando è? A Milano è il 16 aprile, no, la prima sarà il 13 a Savona e poi a Genova il 14. Benissimo, grazie. Fossi in te, io insisterei. Carlo Gabardini, grazie a tutti, un saluto da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, grazie. Ciao.